Versetto 2. Questa parabola propria di San Matteo è simile a quella di San Luca, capitolo 14, versetti 16-24, ma ne differisce nei particolari. La frase è simile, eccetera. Avviene nel Regno dei Cieli come quando un re fa le nozze del suo figlio, cioè imbandisce il convito nuziale. Il re è Dio Padre, il figlio è Gesù Cristo, la cui unione con la Chiesa viene paragonata a uno sposalizio. Versetto 3. La frase mandò i suoi servi, eccetera. In Oriente, dopo il primo invito fatto dal padrone, si usava mandare dei servi a prendere gli invitati e a far loro corteggio fino alla sala del convitto. Dio ha chiamato i giudei a entrare nella sua chiesa. A loro ha rinnovato l'invito per mezzo dei profeti, del Battista e di Gesù stesso, ma inutilmente. Versetto 4. La frase, altri servi, eccetera, sono gli apostoli, i quali dopo l'ascensione di Gesù non solo invitarono gli ebrei a entrare nella chiesa, ma loro annunziarono che tutto era preparato, immolato l'agnello, istituiti i sacramenti, comunicati i doni dello Spirito Santo. Versetto 5. La frase se n'andarono, eccetera, eccetera. Gli invitati in maggioranza preferirono i loro terreni, interessi al convitto preparato. Versetto 6. La frase uccisero i servi. I giudei mossero infatti persecuzioni violente, delle quali furono vittime gli apostoli e i discepoli di Gesù Cristo. Versetto 7. La frase mandate le sue milizie, eccetera. Terribile vendetta di Dio. Le milizie di Dio sono le armate romane, le quali, sotto la condotta di Tito, fecero un orribile macello dei giudei e distrussero il loro regno per sempre, facendo un mucchio di rovine di Gerusalemme e del Tempio. Versetto 8. La frase allora disse: avendo gli ebrei ostinatamente rigettato l'invito loro fatto, si sono mostrati indegni di ogni misericordia. Allora Dio ordinò agli apostoli di portare il Vangelo alle genti. Versetto 10. La frase: quanti trovarono buoni e cattivi. I servi non dovevano fare alcuna distinzione, bastava loro che gli invitati accettassero l'invito. Dio vuole che il Vangelo sia predicato a tutti, che niuno sia escluso dalla via della salute. Versetto 11. La parabola riguarda anche i gentili. Per essere ammesso alle nozze eterne dell'agnello in cielo, non basta aver appartenuto alla Chiesa, ma è necessario indossare la veste nuziale della grazia santificante. Nella Chiesa quaggiù i cattivi sono frammischiati ai buoni. Prima però che abbia luogo il convito nuziale, Dio separerà gli uni dagli altri. Versetto 12. Ammutoliti non avevano alcuna scusa da portare. I re d'Oriente solevano inviare agli invitati un abito splendente affinché, vestiti di esso, si presentassero al convitto. Altri pensano che ogni invitato dovesse per l'occasione provvedersi di un abito nuovo. Versetto 13. Tenebri esteriori. Vedi nota al Matteo 8, 11, 12. Cioè, i convitti presso gli ebrei si tenevano alla sera dentro sale molto illuminate. Perciò il convitto messianico viene simboleggiato come svolgersi in mezzo alla più viva luce. Coloro che ne sono esclusi vengono quindi a trovarsi nelle tenebre esteriori che circondano la sala del convitto. Essere esclusi dal convitto messianico equivale a essere mandati all'inferno. Il pianto, lo stridore di denti significano le varie pene e la disperazione da cui saranno afflitti i dannati. Versetto 14. La frase: molti sono i chiamati. È la conclusione della parabola. Tutti furono chiamati, sia i giudei che i pagani. Pochi però hanno accettato l'invito, e di questi furono ammessi alle nozze solo quelli che avevano la veste nuziale, la grazia santificante.